24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. La forte un bacione a Firenze, che lei è la mia città, che in cuore ho sempre qui. La forte un bacione a Firenze, un vedo l'ora quando tornerò. Son figlia di emigrante, per questo son distante, lavoro perché un giorno... Allora, onorevole Dario Nardella, buongiorno. Da ieri, è Firenze che ha baciato lei, se ho capito bene. Dico di sì, anche se in realtà mi ha baciato quando avevo 13 anni, che mi sono trasferito con la mia famiglia qui, non avevo né amici né parenti, da allora non mi ha più lasciato. Quindi un lunghissimo bacio. Senta, quella di Renzi è un'eredità però penso abbastanza impegnativa. Renzi ieri, lasciando il suo posto, ha detto: proseguite come se niente fosse. Sarà facile proseguire come se niente fosse? Beh, non sarà scontato, non c'è dubbio, anche se sono convinto che si debba continuare il buon lavoro fatto, come ha detto Renzi ieri in una giornata straordinaria da presidente incaricato e sindaco uscente. Io penso che racconteremo i 5 anni intensi di cambiamento che abbiamo trascorso qui a Firenze senza una pausa. Di questi 5, 4 anche io personalmente era come vice sindaco. Sì. Esatto. Senta, sì. No, Berlusconi come Marchionne, però parlando di Firenze ha detto una piccola città in un tono abbastanza dispregiativo. Per lei com'è Firenze? Ma penso che i fiorentini non dimenticheranno mai quella battuta infelice di Marchionne. Beh, anche il David di Michelangelo era molto piccolo a confronto del gigante Golia. È la storia di Firenze, è una piccola città che ha gettato la luce sul mondo, una città, forse la città più universale del mondo. Ecco, nella sua corsa a sindaco, Renzi, quando toccò a lui, aveva come avversario Lapo Pistelli, che aveva chiesto a lui di dimettersi da deputato. Lui non l'ha fatto. Lei anche è deputato, lo farà? Ma in effetti la legge non mi imporrebbe di dimettermi, se non quando sarò eletto sindaco. Però penso che ciascuno di noi debba rischiare nella vita, vale a maggior ragione per i politici, e quindi sono determinato a rinunciare al paracadute del doppio incarico e del ruolo di parlamentare. Vorrei soltanto poter condividere la gioia di votare la fiducia al governo Renzi. Quindi vota la fiducia e poi... Darò le mie dimissioni da parlamentare per dedicarmi alla mia città totalmente. Ecco, senza... ci saranno le primarie per scegliere il candidato del PD, oppure questa nomina così fa sì che tutto sommato è già fatto? No, io l'ho detto, Minoli, le primarie non solo si possono fare, a mio avviso si devono fare, perché sono un punto di forza del Partito Democratico. Hanno provato a copiarci, ma non ci sono riusciti altri partiti. Tra l'altro rafforzano il candidato al sindaco e sono anche un modo di far partecipare quindi i cittadini. Certo, e quindi le correrà non da deputato, correrà, sì, da semplice militante alle primarie. Siano altri militanti che si sono in questi giorni un po' lamentati del fatto che non vi fossero, che a questo punto si vengano facciano fuori. Avanti. Ecco, Renzi aveva la fotografia di La Pira nel suo ufficio a Palazzo Vecchio. Se capiterà a lei di fare il sindaco, glielo auguro, l'avrà anche lei questa fotografia? Certo, è una delle cose che non cambierò del passato di Renzi. Ecco, senta quali erano i progetti di La Pira per Firenze. Rullano i tamburi, sventolano i gonfaloni della città di Firenze, che ospita un convegno dei sindaci giunti dalle capitali dei 5 continenti. Apertura dei lavori nel Salone dei 500 in Palazzo Vecchio. Le città capitali di tutto il mondo convenute a Firenze si ripromettono reciproca amicizia e pace. Città come Firenze non sono dei musei, sono delle grandi esperienze storiche che la provvidenza provoca, destinate a rilanciare su tutto il corpo dei popoli e delle nazioni fermenti nuovi. Certo, impegnativa l'eredità di La Pira. Sentire sovrastante, bellissima, ma è anche una sfida quotidiana che tocca qualunque sindaco successore di Lapira. Quindi davvero è un orizzonte anche per lei questo, in qualche modo? Lo deve essere, lo dicevo prima, la città, Firenze è la città più piccola e più universale, direi la città più glocal del mondo. Lapira lo aveva capito prima di tutti, lanciando questo straordinario messaggio di pace che oggi è ancora più attuale. Senta, onorevole Nardella, posso chiamarla ancora onorevole? Senta, sì. Sono le 9:15 e 04 secondi. Oggi è la sua prima giornata da reggente, non so se è la parola giusta. Dove va appena finisce qua? Che cosa fa come prima cosa a Firenze? Dunque, io farò anzitutto, ora mi prendo un po' alla sprovvista, ma insomma farò un incontro con i tecnici, perché siamo all'inizio, per fare il punto della situazione sulle cose più urgenti. Dopodiché ho pensato di fare una visita agli artigiani della mia città, del centro storico, e poi ritornare in comune per seguire il progetto sul nuovo stadio. Bene, vabbè. Allora, auguri e buon lavoro. Per ora critiche zero, perché non è capitato ancora niente. Quindi siamo all'inizio. Tanti auguri, tanti grazie, auguri. Grazie mille a tutti voi radioascoltatori. Grazie. Questa macchina dello Stato costa in effetti un terzo di più ai cittadini italiani di quello che mediamente costano le macchine dello Stato ai cittadini europei. E in effetti sono 20 anni che ascoltiamo ricette per far dimagrire il nostro debito. Un obiettivo di risparmi per il 2016 di 32 miliardi. Tagliamo sui doppi e tripli incarichi. Questa storia delle siringhe ci ossessiona da 20 anni, ma le siringhe continuano a costare in modo diverso da un posto all'altro. Prendiamo i soldi della TAV e li investiamo in cultura, nella scuola, nell'università e nella ricerca. Per mobilitare un'economia grande come quella italiana bisogna mobilitare almeno 200-300 miliardi. Il 24 assaggeremo il piatto forte di Corrado Passera, ma intanto ci sarebbe una cura da 1.000 miliardi per il debito pubblico. Professor Paolo Savona, buongiorno. Ecco, lei è, è uno degli artefici di questa cura da cavallo da 1.000 miliardi, non so se sarà da cavallo. Il Corriere ieri titolava: questa cura è sul tavolo di Matteo Renzi, immagino. Le risulta che l'abbia letta? Ma io penso di sì, anche perché ovviamente tramite i collaboratori è in grado di valutarla. Ecco, ma quindi noi non abbiamo solo proposto naturalmente. Ecco, ma a prescindere dal fatto che Renzi l'abbia letta o no in questi giorni, una cura da 1.000 miliardi per tagliare il debito pubblico di 200 miliardi. Ecco, per sostituire 1.000 miliardi di titoli del debito pubblico italiano con 650 miliardi di nuovi titoli a lungo termine. Ecco, dov'è il vantaggio? Scusi, è un po' complicato, non so se ho capito bene, ma me la spiega bene? Dunque, innanzitutto sono due operazioni. La prima operazione trasforma il debito pubblico dandogli, con l'allungamento delle scadenze, una certezza in termini di costo dell'indebitamento. Fino a poco tempo fa, ma il tutto non è rientrato, il mercato si attendeva un aumento dei tassi dell'interesse. E quindi di fronte a un aumento dei tassi dell'interesse ci sarebbe, direi, la possibilità che anche il debito pubblico italiano costi di più e quindi allontani sempre di più l'obiettivo. La possibilità di tagliarlo, certo. L'altra operazione, quella invece di utilizzare il patrimonio pubblico come garanzia, sostituendo titoli del debito pubblico per 700 miliardi, almeno come proposta, poi dicevamo c'è un minimo che deve raccogliere di consenso presso il pubblico. Questo invece sarebbe un abbattimento vero e proprio del livello, che è uno dei problemi di debolezza. Il fianco scoperto dell'economia italiana è il debito pubblico. E con questa manovra di quanto scenderebbe il debito pubblico con questi con questa vostra proposta? Praticamente farlo diminuire un minimo di 200 miliardi, il 13%. Questo è quindi sui 700. Io penso che l'operazione, se ben spiegata, ben condotta nelle mani di intermediari che abbiano un certo vantaggio anche nell'operazione, si possa andare anche oltre, cioè avviare un processo di riduzione puramente finanziaria, facendo leva sul debito pubblico, avviare un'operazione di rientro dai nostri tassi crescenti, percentuali crescenti di debito pubblico sul PIL. E finché la crescita dell'economia italiana, la somma della crescita reale più l'inflazione, eccede la crescita dell'economia nel suo complesso, noi stiamo distruggendo ricchezza e quindi stiamo peggiorando la possibilità anche di rimborsare il debito pubblico. Ecco, professore, intanto 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 il nostro SMS. Ma professore, dicevo, ma com'è se è così semplice? Com'è che non ci ha pensato mai nessuno prima? No, guardi, intanto viene quasi a noia, penso che ci siano 6-7 proposte. Ah, insomma. Ecco, e che non sono state realizzate, diciamo. Mai realizzate, il motivo è il perché. Insomma, ecco, e se secondo lei qual è il perché? Se uno pensa male, pensiamo male, che non si sbaglia mai. Allora, il limite del debito pubblico così alto consente di fare le riforme e ha consentito di aumentare le tasse, perché poi l'unica riforma che hanno fatto nel paese è l'aumento delle tasse, le altre non sono arrivate o se sono arrivate sono di dimensioni insufficienti. Sì. Anche nel corso dell'esperienza di governo al quale ho partecipato, una proposta a quei tempi simile a questa, ma non esattamente come questa, fu praticamente respinta dal presidente Ciampi, il quale dice: siamo politicamente troppo deboli per poter resistere alla nuova ondata di spese, quindi al nuovo aumento di debito pubblico legato all'abbattimento del livello del debito pubblico. Professore, c'è Mario Secchi che vorrebbe fargli una domanda. Grazie. Buongiorno prof. Ciao. Allora, diciamo che questa proposta, se vogliamo essere sintetici, eviterebbe l'avanzamento dell'idea della patrimoniale, sì o no? Eh beh, certo. Cioè alternativa alla patrimoniale. È alternativa alla patrimoniale. Ecco, ma e gli enti locali a loro volta cosa devono fare in questa proposta? Il discorso si complica, perché io ritengo che il debito pubblico sia il debito di tutti, quindi anche degli enti locali. Appunto. Però non complichiamo il tutto, facciamo un'operazione che è collegata. No, perché mi sembrava che nella proposta ci fosse un ruolo anche per gli enti locali. È chiaro, perché parte di un patrimonio pubblico, soprattutto di quello che in questi ultimi tempi ha spinto le tariffe verso l'alto, l'inefficienza, i passivi e pure le corruzioni. Devo dire, sono passati dalle municipalizzate. Ed ecco, quindi se vogliamo fare una riforma, noi ci rivolgiamo a Renzi, che propone anche, direi, la riforma della pubblica amministrazione, certo, che non penso sia solo una riforma concentrata sull'amministrazione centrale, ma anche su quella periferica. E allora bisogna mettere insieme anche la volontà degli enti locali e quindi dei patrimoni. In quel senso, appunto, anche i patrimoni degli enti locali convergeranno in questa manovra. Ovvie fosse accettata nelle vostre aspettative. Esatto. Ecco, professore, però il debito pubblico con il rigore di questi anni in Europa in realtà non solo non è diminuito, ma è aumentato di molto. Ma allora che senso ha insistere con il rigore senza avere gli strumenti per lo sviluppo? Aumenterà sempre il debito pubblico, saremo sempre più poveri e non lo so. Lei mi invita a nozze, ne abbiamo già parlato. Credo che a parlarne non si fa mai male. Certo, il discorso di fondo, i paesi come Stati Uniti e Giappone sono usciti dalla crisi puntando su un aumento deciso del debito pubblico. Altri paesi non lo hanno fatto in modo deciso, come la Francia, ma hanno percorso lo stesso itinerario. L'Italia ha voluto invece fare il primo della classe. Possiamo dire questo termine? Io penso di sì. Diciamolo. Abbiamo fatto i primi della classe. Oggi ci ritroviamo e ritorno su un concetto. Ma di quale classe? I primi di quale classe? Della classe europea stiamo parlando, evidentemente. Certo. Della classe europea. Mentre il mio maestro Guido Carli mi insegnava di stare sempre col compagno discolo, che è un suggerimento politico, ovviamente, non può essere un suggerimento di educazione dei giovani. Allora, il discorso, appunto, da fare oggi, finché c'è una formuletta, ma vediamo di spiegarlo al radioascoltatore, una formuletta per cui quando l'economia cresce meno del deficit che si fa, nel senso noi stiamo crescendo 0,1 più un'inflazione 1,5, 1,6, praticamente il deficit pubblico al 3, noi stiamo distruggendo ricchezza. E infatti la tassazione avviene sul patrimonio pubblico, addirittura la rendiamo evidente. Noi siamo in una situazione dell'Italia in Europa tale che se rispettiamo le regole europee rigorosamente, anche oggi aprendo il giornale ho scritto che l'Italia deve rispettare il 3%, ma anche se lo rispetta continuiamo ad andare male. Ecco, ma professore, abbiamo Antonio da Padova che Antonio? Da Udine. Sì? Ah, da Udine, no, da Udine. Sì, Antonio, dica. Sì, buongiorno dica. Grazie dell'onore. Dica. Allora, avrei una domanda da chiedere, una curiosità. Sì. Se non ho capito male, noi come riserva aurea siamo il terzi nel mondo. E perché non la usiamo per risanare il debito pubblico? Glielo giriamo al professore. Ma intanto le riserve auree sono riserve ufficiali e servono per squilibri di bilancia dei pagamenti. Quindi anche là comunque sia sarebbe una distruzione di ricchezza, siamo sempre da capo. Ecco, professore, ma siamo vittime in qualche modo di una dittatura degli euroburocrati che si sono sostituiti ai politici? Il termine siamo vittime è un po' troppo pesante. Vabbè, per essere siamo... Per essere vittime, dobbiamo a un certo punto subire pressioni senza la nostra adesione. Allora uno è vittima. Ah, vabbè, noi non le credo vogliamo. Che questa è la nostra. Ecco, decisione. Professore, io le faccio sentire una cosa che ci ha detto il professor Guarino a proposito del golpe che l'Europa avrebbe attuato ai nostri danni, ai danni dell'Italia e non solo. Poi vorrei un suo commento. Lei dice che con la creazione dell'euro c'è stato un colpo di Stato. In parole semplici, mi dice perché? La disciplina è approvata da tutti gli Stati con le procedure di approvazione dei trattati. Era fondata su due poteri, perché tu non puoi dire la crescita, devi conferire i poteri per realizzare la crescita. Naturale. E questi poteri erano esattamente individuati, erano ciascuno Stato poteva elaborare, doveva elaborare la propria politica economica in funzione della crescita, nell'elaborare la politica economica in funzione della crescita avrebbe potuto indebitarsi. E allora, invece, professore, questi due poteri sono stati eliminati. Sono stati esautorati. È una cosa importante che sono stati sostituiti da due doveri. Certo. Il primo dovere è di realizzare il pareggio del bilancio a medio tempo. Il secondo dovere di realizzare il pareggio di bilancio a medio tempo seguendo un programma prestabilito dalla Commissione. Allora, professor, non siamo vittime, ma siamo complici. Professor Savona? Ah sì, certo, io credo che continuasse la domanda. No, è finito. Volevo sapere una sua valutazione. Parte quello che ho detto io circa cosa significa essere vittime. Il ragionamento di Guarino, che io condivido appieno, è un ragionamento molto raffinato, tradotto in termini semplici. L'Europa ci ha promesso più crescita e unione politica. Non abbiamo avuto né l'uno né l'altro. La ratio del trattato è stata violata, questa è quella che a un certo punto... C'è Pietrangelo Buttafuoco, professore, una domanda. Buongiorno professore, una domanda proprio da ignorante le faccio, ma perché non possiamo seguire la ricetta attuata in questo periodo dal Giappone? Perché l'interpretazione che si dà del trattato europeo, e questo è un altro passaggio di Guarino, in particolare la direttiva 1466 del 1997, mi scuso dei termini tecnici, praticamente addirittura costringe non solo di non raggiungere il 3%, ma di azzerare il deficit di bilancio. Quindi stiamo andando in direzione esattamente contraria a quella degli Stati Uniti e del Giappone. Non è un grande affare. Mario? No. Professore, Renzi è alle prese con la formazione del governo. Il Ministero dell'Economia, lo sanno tutti, è quello chiave, è il tema, anzi il Ministro dell'Economia. Al di là dei nomi, se ne fa qualcuno, a noi fa piacere ovviamente saperlo, ma qual è il profilo ideale secondo lei? Guardi, oggi c'è una situazione politica tale che le responsabilità dell'economia dovrebbero essere gestite direttamente dal Presidente del Consiglio. Il fatto che, direi, anche illustri nomi, illustri personaggi rifiutino di andare al Ministero dell'Economia significa che c'è la coscienza che i problemi sono talmente grandi che sovrastano le possibilità di ogni singola persona. Quindi l'unione politica, diciamo prima, se vogliamo risolvere il problema del debito pubblico dobbiamo ottenere il consenso della burocrazia periferica e il consenso in particolare della politica comunale e regionale. E quindi è il Presidente del Consiglio che può avere solo lui questo tipo di responsabilità? Beh, certo, è un'analisi molto... molto precisa, eh? Non detto da una persona che ha collaborato a governi che erano nettamente improntati, diciamo, al risanamento economico, a far fare un passo avanti all'Italia e così via. Vabbè, gireremo questa proposta al presidente incaricato, vedremo quali saranno le sue scelte. Grazie professore, grazie mille, grazie. Mix 24. Se senti il profumo della primavera, poi vai dentro alla neve in disgelo come membro del Tatenokai. Nella gelida forza che aveva la mitraglia dei nostri soldati, i nostri ragazzi più belli ci hanno lasciato. Dedicata a chi oggi, Pietrangelo? Questa volta prego Mario, rapiscimi, sorprendimi povero con illuso. Tutta la tua poesia, annientami con la perfetta follia. Questa volta siamo in zona area Digos, non mi puoi dire niente. Questo è il grande Skol Bellezza e le immagini sono quelle dei samurai. Sicuramente anche questa è roba per qualche gruppettara dell'altra parte che tu hai conosciuto in qualche incerta birreria, poi non beve neanche questo. Accompagna e guarda. Intanto gruppettaro non si usa. Ma io lo uso perché così tu reagisci, scusa, ho capito. Skol! Mario! E che cosa bolle in pentola oggi? Tanta roba abbiamo sentito. Sì, tante cose. Intanto io mi inserirei nel Toto Ministri. Dici, dici, che più. Pici, pici, pici, dici, dici, dici, dici, cazza niga. Butta fuoco. Eccomi. Ci siamo? Senti, allora, ma voi avete visto che è uscito dopo Baricco, che ha detto no, io collaboro. Fabio Volo. Saviano nel Toto Ministri. No, Saviano poverino, ha detto che non sta bene. Quale ministero? Beh, sarà ancora la cultura, il tuo. Bravo, il tuo Pietrangelo. Chiariamo. Senti, Pietrangelo, no, il candidato a fare il ministro della cultura sei tu. E non dobbiamo difendere questa candidatura. Cominciamo a sentire del consenso. Sì, non ci d'accordo. Piove, posso portare un argomento? Allora, c'è un precedente. A tuo sfavore? No. A mio favore. C'è un precedente. Okay. Michele Amari, il primo ministro dell'Italia Unita, lo storico dell'Islam, fu ministro della pubblica istruzione. Subito dopo, sempre nello stesso solco, Giovanni Gentile, insomma, Castelvetrano. Poi, vogliamo dire, Bottai, vogliamo dire, vogliamo continuare, insomma... io dico, lui se deve fare, no, però, se deve fare il governo per gli italiani, la quota cattiverio la deve venendo considerare. Venendo da Firenze, dalla Pira, che li voleva tutti insieme, tu sei perfetto. Però, siccome dobbiamo fare il lancio delle agenzie, confermi la tua disponibilità per il Ministero della Cultura. Confermo. Fantastico, perché è importante. Buttafuoco ha detto sì. Bene. Aspetta la telefonata. La chiamata. La chiamata. Oh, purché non sia Lucia Annunziata a chiamare, perché poi non vale. Ma questa cosa di Barca è meravigliosa perché è tutta una roba di panna montata. No, perché lui ormai... ha scambiato il presidente Napolitano con De Benedetto. Un disastro. Dai, andiamo avanti con le tue bolle. Vale. France. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit. La musica che mi... Allora, Brassens, c'è una notizia importante, era stata già anticipata nei giorni scorsi, però adesso insomma è ufficiale. I cinesi della Dongfeng Motor Group col governo francese e la Peugeot hanno fatto l'accordo. Iniezione di 800 milioni di euro di capitale nella Peugeot. Tenete presente che la famiglia apre il capitale dopo una storia secolare e perde il controllo perché verrà ceduto un pacchetto pari al 14% circa delle azioni. È un segnale, stanno uscendo i dati sul mercato automobilistico europeo, sono positivi, sono buoni anche cominciano a essere buoni anche per la Fiat in alcuni paesi europei, e insomma la ripresa, anche se piccola, qualche in realtà segnale. Qualche segnale la dà anche in un mercato che è stato massacrato l'anno in Europa scorso, soprattutto in Europa. Certo. Quindi è una cosa importante. Restiamo sempre in questa parte dell'emisfero, ma andiamo in un'isola. Sai che assomigliano un po' alle Launeddas sarde, che quindi sempre isola, ma sono cornamuse, perché è molto divertente quello che sta succedendo in Scozia. Secondo me è anche quella che si chiama, i colti dicono, una case history, in questo caso politica, di secessione, perché gli scozzesi vogliono fare la secessione e mantenersi la sterlina. E Londra dice, no! Se tu sei indipendente, amico mio, ti fai la tua moneta e ti prendi anche la tua quota di debito nazionale. Ma gli scozzesi, che non sono scozzesi a caso, come i genovesi dicono, no, se tu non ci dai la sterlina, noi non ci prendiamo il debito nazionale. Ora capisci che la cosa si è un po' incartata. Però è da seguire, perché si vota quest'anno. Certo. Segnalo che c'è anche Bruxelles che dice contemporaneamente agli inglesi che invece tra qualche anno devono fare un referendum per decidere se restare o meno nell'Unione Europea, che attenzione, perché i vostri affari bancari e finanziari sono a rischio se non state in Europa. Quindi è una partita doppia. Da una parte c'è la Scozia che vuole uscire dal cosiddetto Regno Unito. Dall'altra il Regno Unito che vuole uscire dall'Unione Europea. Qua tutti vogliono uscire da qualcosa, ma sì, alla fine nessuno vuol pagare. In realtà quanto si divertono in regia, eh? La mattina scegliamo le basi musicali. Certo. Poi si gasano, come dico io, e le fanno entrare quando vogliono. Decidono loro, la Tardelli ormai comanda. Vabbè, la regia è regia. Ora con sta democrazia pretendete pure la parola. No, regia. Voi dovreste vedere Buttafuoco con le cuffie in testa che sembra un marziano, con quei riccioletti da saraceno, con quel naso che è lì un po' aquilino, un po' no, con i denti che mangerebbe qualsiasi cosa. No, anzi, con i denti da attacca sotto. Quella è la versione ufficiale. È un mini iPad che non ho capito che cosa stia esattamente facendo, ma insomma starà messaggiando qualche sua fidanzata, pezzi per altri gruppettara. Ma tu lo sai, tutto questo nasce da una vendetta, perché a suo tempo io feci un'intervista a lui. E durante l'intervista lo incontrai accanto a una magnificenza, e allora dovevo descrivere, allora si vende. Ciccio e Franco, andiamo avanti, proviamo a lavorare. Tanto grazie per il complimento. Ma Amy Winehouse perché? Perché tu lo sai che non tutti sono quello che vengono dipinti, e c'è sempre un lato un po' cattivo. Ora si procederà, quando sarà finita la presidenza, alla santificazione totale di Obama, e va benissimo. Certo. Però ricordiamo anche che c'è I presidenti appunto, fanno le fondazioni e poi si finiscono. Fa la fondazione e devono decidere dove mettere la libreria del presidente Obama. Io visitai quella di Truman, quella di altri presidenti, sempre sono dei posti bellissimi dove vengono ricostruiti pezzi di storia. E lui dove vuol farla? E non si sa ancora, qualcuno dice che la farà in cloud, cioè solamente virtuale. Ci sarà ovviamente una parte digitale molto importante per la contemporaneità che viviamo. Qualcun altro suggerisce alle Hawaii, la sua terra. mi sembra giusto, vediamo. Però è una cosa da seguire, perché si decide credo nel 2015. Ancora buongiorno coi salamini. E io c'ho tutto un vigneto sacro, sicuro, che è quello dei pezzi a firma dello pseudonimo di Balzac, Carmelo Lopapa, che su Repubblica oggi ci offre una deliziosa intervista al leader di Forza Italia, che non è Silvio Berlusconi, perché quello è il padrone di Forza Italia. Il leader di Forza Italia invece è Giovanni Toti, che insomma Balzac, gliele, Balzac l'ha fatta, l'ha sì, fatta sì, l'intervista la, Carmelo lo Papa, e gliele canta chiare a Matteo Renzi, gliele canta chiare dicendo che il governo Renzi nasce nella segreteria del PD un po' come nei paesi sovietici, il che non sarebbe male, non è neanche sbagliato, non sarebbe punto, male anzi. però poi qua c'è una cosa dove devo per forza sentire la tua opinione, non Mario. È possibile, vabbè, dai. Perché, no, c'è certo. Sotto un tranello no, sicuro. No, che tranello, dai. Che tranello, tu hai dato esempio di aretè, non di sì. Quelle loro virtù democratiche, di sì. Aretè, sei stato bravissimo a non votare, però no, in Sardegna, Sardegna, se Cagliari piange, Roma non ride, insomma il blef che ha organizzato Berlusconi sulla sicura vittoria di Cappellacci. Ma lì, no, lì l'astensione ha fatto 50%. Ha scombinato tutti i giochi. 52%. Io quando ho visto 52% ho cambiato. Però vogliamo tutto. Dire che se Cagliari piange, Roma non ride. Diciamolo. Ma Cagliari ride sempre, sta di fronte al mare. E quindi vogliamo dire che il vero progetto di Silvio Berlusconi è Matteo Renzi? E chi lo sa, può darsi un po'. Ci avviciniamo al vero, chissà. Un po'. Fidati della democrazia. Un po'. Vabbè. Allora gli dedico questa bellissima canzone che ogni volta cerco di mettere e non la sentite mai. Ora dai. Godetevela, le sorelle Marinetti. Di quello che si dice, che sussurrano gli amici e che mormora la gente, non me ne importa niente, non me ne importa niente. Tutti vogliono parlare, tutti vogliono criticare, se mondo maldicente, non me ne importa niente, non me ne importa niente. Lo so che ritorno. Sei veramente retro. Mercuria, Turbina e Scintilla, le sorelle Marinetti. Sì, oggi capito. Ma poi... Promessi Samurai, ora i futuristi. Ma oggi comincia il Festival di Sanremo. Ti chiederemo come mai il mondo fa tutto di noi. Ancora ti amerò fino a hai capito? Non l'ha presa, non l'ha voluta. Il trottolino amore, io me lo ricordavo. Certo, lì a Sanremo se non li prendono depravati non li vogliono. Hai visto? Ora arriva quello che fa la finta crocifissione. Da oggi pagelle sul festival, da stasera tutti cominciano. Giorni, intanto. Noi dopo racconteremo la storia di Luigi Tenco e Gino Paoli l'altro giorno ci ha detto tre cose su Tenco. E Tenco? Luigi era il mio fratello minore. Era fratellino. Il fratellino. Ecco, sì. Ma della storia di Tenco noi gli dedicheremo una puntata. È stata scritta la parola fine secondo lei o no? Sì. Assolutamente. Ma no, era scritta nel momento che è successa. Che si è suicidato. Sì, cioè noi sapevamo benissimo perché si era suicidato, tutti cioè, quanti. Per perché, amore, era, perché era impasticato fino al collo e con delle pasticche, delle cose che avevano scoperto lui e Frezza e Piero, l'italiano, in Svezia, dove... praticamente delle droghe nuove, non è neanche una droga, era una buffonata, nel senso che lì, ma e questo l'ha spinto a spararsi? Sì, perché ti sdoppiava. Tac. Il canzoniere. E allora, Pietrangelo? Facile, facile, facilissimo. Oggi vado alla lettura. È l'incipit di un grande romanzo, che è stato anche un grande film e poi è diventato anche un fumetto. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Questo era in principio presso Dio, e compito del monaco fedele sarebbe ripetere ogni giorno con salmodiante umiltà l'unico immodificabile vento. Mix 24. Pietrangelo, il canzoniere, ripeti. In principio era il Verbo, E il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Questo era in principio presso Dio, e compito del monaco fedele sarebbe ripetere ogni giorno con salmodiante umiltà l'unico immodificabile evento di cui si possa asserire l'incontrovertibile verità. Sento veramente un rumore nell'aria. Sì, telefonate. Abbiamo telefonate dalla regia. Ancora bolla, la bolla prima della telefonata. Andiamo alle Olimpiadi invernali un po' in giro. Dai, vediamo che cosa succede. Ci occupiamo un po' del medagliere, perché è interessante, queste sono cose che piacciono a buttafuoco. Medagliere significa anche geopolitica. Certo. Previsioni e obiettivi centrati. Vediamolo un po'. È interessante perché la Russia ha finora 18 medaglie e ne ha previste 27. Diciamo non male, dai, sono in corsa. Quante sono ancora in palio? Non si sa. Non mi ricordo il dato complessivo, ho le previsioni, diciamo, per stato principale. Gli Stati Uniti 18, previste 32. Olanda, vera sorpresa, i tulipani fino all'altro ieri guidavano il medagliere. Previste 7, ne hanno già ottenute 12, quindi stanno andando alla grandissima. Invece, tragedia nazionale, la Norvegia che ne ha previste 33, ne ha ottenute per ora 15. Uno dice, vabbè, però possono farcela. Il problema è che hanno solo 5 ore e ne avevano previsti 15. Vabbè, è andata male, in Norvegia è una tragedia. No, ma è una tragedia vera, perché quelli investono tutto sugli sport invernali. Ci sono programmi di sviluppo, investimento, quindi è una cosa di politica. Abbiamo la risposta? Sì, è Francesco da Salerno. Francesco! Sì, buongiorno Francesco. Allora? Sì, pronto? Sì, pronto, la sentiamo. Bene. Dica. È il nome della rosa. Bravo. Giusto, Umberto Giusto. Eco, il nome della rosa. L'ho detto che si sentiva qualcosa nell'aria, era l'eco. Bravo, complimenti. Complimenti. Professor Daniele Doglio, anche lei lo sapeva, no? Naturalmente. Buongiorno, certo, ovvio. Poi se lo chiedete dopo che abbiamo la risposta è facilissimo. Dice. Possiamo fare un separietto ad hoc, quello che lo sapeva, un personaggio nuovo. Senta, professor Doglio, a lei tocca raccontarci di media. Oggi che cosa si danno battaglia in realtà nel mondo? Sono tanti, ma certamente sono tanti i temi, ma certamente certo. Uno degli argomenti sono gli eventi sportivi, nel senso che su quello non ci siamo recenti notizie, però come sapete chi possiede i diritti sportivi ormai chiede un sacco di soldi, certo. Siamo nell'ordine di 1 miliardo a stagione per le gare di campionato. E questo vale sia in Europa che negli Stati Uniti, ormai più o meno ho fatto dei calcoli statistici, il parametro è quello, 1 miliardo di dollari circa a stagione. Però Mediaset, quindi, che ha portato via i diritti della Champions League a Sky, mi sembra una notizia forte. È interessante, interessante anche perché è la seconda volta in pochi mesi che Sky perde un pacchetto di diritti importanti. Già alla fine dell'anno scorso BT Vision, cioè la televisione di British Telecom, gli aveva portato via i diritti della Champions per l'Inghilterra, pagandoli 400 milioni in più di quello che paga Mediaset, che già a noi sembra una cifra clamorosa. D'altra parte 700 milioni per 3 anni di Champions League in esclusiva sarebbero una follia se Mediaset pensasse alla TV in chiaro. Certo. Lo sono meno se punta decisamente sulla Pay, e qui c'è chiaramente un cambio di strategia completo, sì, perché quella che è stata, oppure c'è in prospettiva un accordo con Murdoch. Questo è l'altro dei discorsi che si fa, o c'è la possibilità che più che un accordo con Murdoch potrebbero servire ad appesantire la quota diritti per allettare un partner, perché ci sono nuovi soggetti che girano nell'aria, alcuni veramente sorprendenti, insomma di BT Vision ho appena detto, e dobbiamo abituarci al fatto che le televisioni dei telefonici nel tempo saranno sempre più rilevanti, certo, da questo naturale punto di vista. Però ancora più importante, soprattutto per i legami che la famiglia dell'Emiro Altani ha con il mondo del calcio, il Paris Saint-Germain, Manchester City, Malaga, eccetera, eccetera, c'è Al Jazeera, che ha lanciato due anni fa un nuovo marchio che si chiama Be In Sport, che intanto ha già sfilato a Canal Plus i diritti del campionato francese di calcio e quelli della Champions per la Francia. Sta studiando molto seriamente il mercato dello sport americano e si dice che potrebbe perfino essere il socio che Mediaset Premium va cercando. E quindi Al Jazeera diventa un competitor globale anche sulle killer application. Anche sulle killer application della Pay. Poi c'è la vera sorpresa, almeno per me che sono un vecchio appassionato di servizi pubblici e di televisioni, di cultura, Discovery, se la ricorda, certo, un marchio della divulgazione scientifica. Beh, Discovery lo scorso anno ha investito in Europa 3 miliardi di dollari, si è preso tutto il canale Eurosport, oltre all'intero sistema di broadcast privato scandinavo, un pezzo del digitale di TF1 in Francia. In Italia ha soffiato il rugby alla 7, che non ci aveva cavato granché, e ci ha costruito sopra un nuovo format multiblocco abbastanza innovativo dal punto di vista della pubblicità. È la stessa Discovery che ha un azionista di maggioranza che preme molto, John Malone, la Liberty Media, che ha appena offerto 7 miliardi di dollari per controllo della Formula 1. Quindi, professore, i servizi pubblici non possono competere in questo tipo di mercati, devono darsi un orizzonte diverso. È molto difficile. Una volta, lei sa bene, lo sport era uno dei grandi generi di servizio pubblico. Esatto, per questo lo dico. Adesso è solo una questione di soldi. I servizi pubblici sono probabilmente tagliati fuori da quello che era una volta una loro esclusiva. Almeno che uno non si muova con grande prudenza e strategia. Per esempio, BBC ha approfittato delle condizioni di favore che spettano al broadcaster del paese che ospita i giochi olimpici per investire una ragguardevole quota del canone nei diritti delle prossime due Olimpiadi, quindi fino al 2020 gli inglesi sanno che potranno vedere le Olimpiadi su BBC. Sì. Insomma, per noi è diverso. È un po'. Sì, noi abbiamo questo problema, tutto, voglio dire, ecco, con questo tipo di andamenti di mercato, non c'è niente da fare. A cosa servono due canali tematici come Rai Sport 1 e Rai Sport 2? Certo. Quando ormai è evidente che gli sport popolari minori sono a pagamento, sì, e quelli solo minori, minori dei canali, a parte il Giro d'Italia, che è importante, ne basta forse mezzo. Certo. E questo ci riporta al tema delle prospettive 2016. Va bene, professore, io la ringrazio e intanto, vedi, l'hai tratti in inganno, ma siamo impazziti, ma quale nome della rosa? È l'incipit del Vangelo di San Giovanni, qualcuno ci è cascato nel tranello. Il 27 gennaio del 67 all'Hotel Savoy di Sanremo moriva con un colpo di pistola alla tempia Luigi Tenco. Raccontiamo oggi, curata da Marina Milone, la storia di uno dei cantautori più originali della musica italiana, la regia di Maurizio Malabruzzi.